Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la settimana numero 29 in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. È la stagione numero 12 in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM, sempre sotto il nome di Eclettica. Eclettica e le sue pillole, Eclettica e le sue pillole con il dettaglio nelle playlist che potete ricevere direttamente nelle vostre caselle di posta se vi iscrivete, nel caso ancora non lo siate, alla lista nera di Eclettica scrivendo a giulio@radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare anche per vincere biglietti di concerti. Questa settimana, per esempio, vi rifaccio il nome di un locale che spesso negli anni passati si sentiva all'interno di Eclettica, quest'anno invece non è capitato così tanto, è la Casa 139 di Milano. Ho ben due concerti di settimana prossima che vi posso regalare, due nomi che compaiono in quelle playlist appena citate, due nomi come quello di Nico Case che suonerà martedì 9 e quello dei Two Gallants che invece suoneranno giovedì 11. Scrivete a giulio@radiorockfm.com per andare a vedere gratuitamente questi concerti. Come scrivete? Scrivete a sempre quell'indirizzo nel caso vogliate avere informazioni di diverso tipo, vogliate dare consigli, nel caso vogliate avere informazioni più di dettaglio sul podcasting o mi vogliate voi stessi consigliare un software più adatto per accedere a tutte le trasmissioni di Eclettica, a tutte le sue pillole, in modo poi di poterle scaricare, averle a disposizione in formato MP3 da ascoltare quando meglio preferite. Comunque giulio@radiorockfm.com è la porta che io lascio sempre aperta. Sono diventato la persona che sono oggi all'età di 12 anni, in una gelida giornata invernale del 1975. Ricordo il momento preciso. Ero accovacciato dietro un muro di argilla, mezzo diroccato, e sbirciavo di nascosto nel vicolo lungo il torrente ghiacciato. È stato tanto tempo fa. Ma non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. Sono 26 anni che sbircio di nascosto in quel vicolo deserto. Oggi me ne rendo conto. Nell'estate del 2001 mi telefonò dal Pakistan il mio amico Rahim Khan. Mi chiese di andarlo a trovare. In piedi, in cucina, il ricevitore incollato all'orecchio, sapevo che in linea non c'era solo Rahim Khan, c'era anche il mio passato di peccati non espiati. Dopo la telefonata andai a fare una passeggiata intorno al lago Spreckels. Il sole scintillava sull'acqua dove dozzine di barche in miniatura navigavano sospinte da una brezza frizzante. In cielo due aquiloni rossi con lunghe code azzurre volavano sopra i mulini a vento, fianco a fianco, come occhi che osservassero dall'alto San Francisco, la mia città d'adozione. Improvvisamente sentii la voce di Hassan che mi sussurrava: «Per te, qualsiasi cosa». Hassan, il cacciatore di aquiloni. Questo era l'incipit del Cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Oh, eclettica. Abbiamo aperto Eclettica di questa settimana con due belle novità, novità per quanto riguarda le playlist di Eclettica. La prima, un brano che non è ancora stato oggetto di pillola, la seconda sì, proprio di pillola quest'oggi, ma non è detto che la prima stessa magari compaia come pillola durante il giorno, nelle prossime giornate. Davix, Song for Sleeping Girl, questo è il titolo del brano che ha aperto la puntata di Eclettica, la prima parte delle quattro che costituiscono questa 29esima settimana della 12esima stagione, come già vi ho anche detto. Poi seguito dalla pillola di quest'oggi di Ian Faze, quartetto che proviene da Arcata, California, Julia Faye, Lina Faye, Sarah Faye, Lizzie Faye. Elise e Sarah sono gemelle, le altre due non lo sono. È un esordio questo per la nostrana Home Sleep Music, per la precisione dal 24 di aprile, quindi pochissimi giorni sulle spalle. 11 tracce, noi in questo momento stiamo ascoltando in Eclettica la ottava, All the Phones Are Broken in This House, Sir, e questo è il titolo del brano. Ora proseguiamo con un disco che anch'esso sì una novità, ma compare da qualche settimana nelle playlist di Eclettica, e contrariamente a quello che si dovrebbe fare di solito, cioè quello di concentrarsi su un brano, farlo ruotare per un po' e poi passare ad un altro, io voglio subito darvi la possibilità di conoscere diverse facce di questo disco per farvi capire come si avvicini come stili al disco che ce li ha fatti conoscere. Sto parlando The Dresden Dolls, Yes Virginia, l'album uscito per Roadrunner, del quale già conosciamo perlomeno qua in Eclettica il brano che ha per titolo Sing che lo chiude, però vi voglio far ascoltare anche la traccia numero 6, The Dresden Dolls con Dirty Business. Chose so far. the kind who comes to poke her pockets stuffed with kings and aces. She's the kind of girl who only asks you over when it's raining, just to make you lie there catching water. There's a secret society of the five wealthiest people in the world, known as the Pentaveret, who run everything in the world, including the newspapers, and meet tri-annually at a secret country mansion in Colorado known as the Meadows. So who's in this Pentaveret? The Queen, the Vatican, the Gettys, the Rothschilds, and Colonel Sanders before he went tetsa. Oh, I hated the Colonel with his wee beady eyes. And that smug look on his face. Oh, you're gonna buy my chicken. Oh. Dad, how can you hate the Colonel? Because he puts an addictive chemical in his chicken that makes you crave it fortnightly, smartass. Interesting. Cuckoo. PF è il titolo del brano dei Controller. Controller che piace a tanti ascoltatori di Eclettica. Come sempre me lo fate notare scrivendo giulio@radiorockfm.com. Questo è il modo con cui io vengo a sapere i brani che vi piacciono, quelli che non vi piacciono. Per esempio, ogni tanto arrivano messaggi minacciosi contro l'hip hop, altre volte contro l'indie rock e così via. Però io vado dritto per la mia strada. Non che non prenda in considerazione le cose che mi dite, anzi sapete bene che le prendo molto in considerazione, però sono convinto anche di una serie di punti fermi che devo seguire all'interno di questa trasmissione. Dopo i canadesi Controller Controller, proseguiamo con gli inglesi The Broken Family Band, che già ci eravamo ascoltati con un estratto dal loro ultimo Balls, che costituisce anche il terzo album per la band di Cambridge. The Track and Field Organization è il nome dell'etichetta per cui incidono. Quella volta ci eravamo ascoltati It's All Over, quest'oggi invece un brano ben più ritmato, I'm Thirsty. Assieme a Idea Sonica con Jazz Coleman, Killing Joke e la loro Betrayal, siamo quasi arrivati in chiusura di questa parte di Eclettica, la prima parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Vi ricordo, anzi vi invito a mantenere il contatto, magari nella pausa fra un'Eclettica e l'altra, all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, sia che questa pausa sia di quasi 24 ore nel caso ascoltiate la trasmissione per radio, o magari anche solo di qualche secondo nel caso per esempio vi siate avvalsi del podcasting. Vi lascio con i My Latest Novel. Frivolous or few, a savior I've been called, and it's just